Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, 16:33 minuti e 59 secondi, Luca Tremolada, Cristina Tagliabue, puntata guarda un po', dedicata al gioco, al gioco digitale, al mondo delle scommesse, alla storia di un imprenditore del web che ha visto dalla New Economy ad oggi. Abbiamo Fausto Gimondi qui con noi, buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Cristina Tagliabue, che facciamo adesso? Giochi pericolosi. Lanciamo le news. Stasera, ore 21 a Milano, grande ed attesissimo opening dell'Hangar Bicocca, che riapre dopo un anno e mezzo. Il rinnovato spazio artistico propone ben 5 mostre, tra cui Melting Pot 3.0 di Stefano Boccalini. Il nuovo direttore artistico del Festival di Locarno, Olivier Per, ha annunciato le novità della 63esima edizione. Il regista italiano Daniele Gaglianone presenterà in prima mondiale il suo terzo lungometraggio di finzione, dal titolo Pietro, ma saranno una ventina i film in lizza per il Pardo d'Oro da 90.000 franchi svizzeri. È stato presentato stamane presso il Palazzo del Lavoro G-Group il progetto Moms at Work, che offre alle aziende servizi di recruitment e consulenza specializzati sulla forza lavoro mamme. Il sito internet di riferimento è www.momsatwork.it. Lunedì sera, appuntamento con Patti Smith alla libreria Feltrinelli di Milano, in piazza Piemonte. L'artista americana presenterà il suo libro Just Kids, insieme a Luca Sofri, ore 20:30. Mercoledì prossimo alle 10 di mattina, presso lo spazio Energolab di Milano, si parla di gioco problematico. Insieme a Massimo Cacciari e a operatori di settore, psicoterapeuti, sociologi, si interrogano sull'effettivo stato delle conoscenze del cosiddetto gioco problematico. E proprio di gioco problematico, la prima domanda è: ma se, quindi, se perde l'Italia, come vanno le scommesse, Gimondi? Cioè, noi siamo felici. Felici come le Pasqua. Ma siamo infelici come tutti gli italiani. No, infatti. Beh, però per i pochi che sicuramente ci stiano seguendo, che probabilmente non seguono la partita... Che tipo di numeri dà un evento come una partita della nazionale? Cioè... migliaia di persone che contemporaneamente scommettono. Che cosa vuol dire? Perché questo è un aspetto anche interessante, visto che in contemporanea abbiamo la partita dell'Italia. Cioè ci sono migliaia di persone che, seguendo l'evento, aggiungono alla pathos e alla suspense dell'evento sportivo un gioco, che è quello di cercare di battere sostanzialmente noi, il banco digitale, il banco, indovinando l'esito di una serie di eventi che possono essere chi segnerà il prossimo gol, come finirà la partita, non solo chi vince, chi perde, se pareggiano, ma con una dinamica che rende il tutto un po' più divertente. Stimolante. Tra l'altro, con una componente che abbiamo aggiunto al live betting, che è la possibilità di chattare, quindi di parlare con gli altri giocatori. Quindi anche di insultarsi tra di loro. Sì, diciamo che nel caso dell'Italia questo non accade. No, quando c'è Milan-Inter è più divertente. Diciamo che i nostri community manager e moderatori hanno qualche... Dicensori. Sì. Tu scommetti, Cristina? No, sì. No, non ho mai scommesso in vita mia. Una volta ho fatto il gratta e vinci dicendo: ah, sai la volta nella vita che lo faccio perché ne ho bisogno, vincerò. E invece no, non ho vinto male. Assolutamente. Però sono molto affascinato dai giocatori di poker. Ah, questo sì, sempre stata affascinata dai giocatori. Lì c'è l'aspetto del gioco problematico anche, immagino. Prima che mi rispondi sul gioco problematico, però vediamo di capire chi è Fausto Gimondi, mandiamo una scheda che è stata preparata da Cristina Tagliabue. Dopo un'esperienza come radiogiornalista, Fausto Gimondi si è dedicato sin da giovanissimo all'esplorazione dei new media. È stato responsabile editoriale per il gruppo JC delle testate tecnologiche. Nel lontano 1995, pioniere della rete, ricopre il ruolo di responsabile dei contenuti presso Matrix, azienda oggi di Telecom Italia, che sviluppò il primo portale italiano, Virgilio. Tra il 2001 e il 2004 ha ricoperto ruoli di cross media management per il gruppo SEAT e Telecom Italia Media. Lo scorso anno, insieme a Carlo Gualandri e Carlo D'Acuto, ha fondato Gioco Digitale. Quindi insomma, da motore di ricerca, giornalista, poi il motore di ricerca, poi un'esperienza in Telecom Italia, a biscazziere online. A biscazziere online. È così che si fa alla fine. Non l'avrei, giuro, mai detto. Mai detto. Però è stata un'esperienza straordinaria, perché uno mi ha fatto conoscere un ulteriore mondo, ed un mondo spesso poco noto nel mondo per chi si occupa di tecnologie, di mondi e culture digitali. Il gioco è un'attività che noi facciamo da quando siamo bambini a quando moriamo, e chi non la fa è veramente triste. Il fatto che al gioco aggiungo del denaro cambia qualcosa, ovviamente. Il fatto che questa attività venga fatta online poi aggiunge ancora la più, la fa diventare una delle attività, tra l'altro, più fatte, più frequenti nell'utilizzo dell'online. E anche più nel mirino da un certo punto di vista, perché c'è una parte di gioco che è sana e c'è una parte di gioco che è malata, no? Sì, e c'è una parte di gioco che è problematica. Sai, come in tutte le cose. No, certo, certo. Però sul gioco va a titillare, io lo dico da, io non sono un giocatore. Oh, ma che verbo è titillare? Dai, piace, è un po' porno. No. è andata così. No, però diciamo che va a stuzzicare. Poi il porno, il gioco. Va, allora c'è la partita della nazionale, va a stuzzicare che cosa? Va a stuzzicare un po' di delle debolezze, anche delle fragilità, delle dipendenze, insomma. Questo è interessante ed è una cosa che ovviamente ci siamo posti fin dall'inizio. Noi che non veniamo dal mondo del gioco ci siamo subito detti: perché fare questa cosa? Perché abbiamo visto che si poteva innovare molto. Si poteva trovare ancora una volta un nuovo stimolo per creare, dopo Virgilio, qualcosa che portasse anche all'internet italiana qualcosa di ancora nuovo, in un ambito estremamente complicato anche dal punto di vista, come dire, di coscienza e morale. Abbiamo poi scoperto che in realtà le cose non sono così problematiche come si possa pensare. In questo convegno che faremo il prossimo mercoledì cercheremo anche di dare la dimensione del fenomeno del gioco problematico, per dire: siamo perfettamente coscienti che ci può essere questa cosa, però alle volte si mettono insieme tante cose, no? Da quello che gioca alle video slot, al gratta e vinci, al poker online, tutte insieme. Poi, senza entrare troppo nel dettaglio di cose anche molto tecniche dal punto di vista proprio della lotta in generale alle dipendenze, la nostra idea fin dall'inizio, ed è uno dei motivi per cui abbiamo inventato e fondato Gioco Digitale, è che abbiamo sempre creduto di interpretare questa industria un po' come avevamo interpretato prima anche l'esperienza di Virgilio, cioè la creazione di prodotti di entertainment, diamo la possibilità alla gente di divertirsi, di passare del tempo. Quando facevamo, ecco, Virgilio informandosi, è abbastanza emblematico, perché tu sei passato quindi da Matrix, per cui da un'esperienza giornalistica, Virgilio che era anche un contenitore di informazioni, di news, di approfondimento, forse anche mi risulta lo sia ancora? Sì, diciamo che lo so, forse perché io sono giovane, Virgilio giovane, cioè 40 anni, però Virgilio era un punto di riferimento molto forte, adesso ce ne sono anche altri. E la cosa interessante è che si è passati quindi da una parte informativa a una parte ludica, di gioco. È un modo di dire che forse la rete sta diventando qualche cosa di molto più interattivo e di meno informativo, forse. Lo è sempre stato, però, nel senso che noi ci siamo subito posti all'inizio. All'inizio abbiamo detto: innanzitutto dobbiamo costruire, proviamo a fare una metafora col calcio, visto che c'è anche una partita in corso. Abbiamo costruito il campo da gioco dove la gente, dandoci pochi soldi, poteva entrare nel campo e fare la propria partitella. Quello che fin dall'inizio però avevamo deciso, e questo è stato forse l'ingrediente di successo di Gioco Digitale, di come abbiamo interpretato questa industria online, è stato: però dobbiamo subito costruire attorno a questo stadio delle tribune, magari anche un bar, magari anche una libreria, magari anche un posto dove poter rilassarsi un attimo e guardare dei filmati, magari anche una scuola per giocare meglio a calcio. Cioè l'idea era trasformare il gioco in un'esperienza a 360 gradi di socialità del gioco. Che ha avuto successo, si può dire, visto che io non so perché non me l'ha voluto dire Gimondi quanti soldi ha fatto, però di fatto l'hanno venduta a una multinazionale e quindi, come dire, non è che si può dire di Gimondi alla fine gli è andata bene con ciao Virgilio, occhio, ha fatto ragazzo, quella roba lì, no, occhio. È la seconda che gli va dritta, per cui... Abbiamo 10 secondi, 5 secondi, pochi secondi, insomma, una manciata di secondi per dire, insomma, che cosa ti piace, visto che sei passata dall'informazione al gioco, prossimi progetti, dove ti piacerebbe lavorare in campo di internet? Qual è diciamo il settore che vedi più interessante in questo momento? All'incrocio tra la mobilità, il divertimento, in mobilità e geolocalizzazione e quello che sono oggi il nuovo pubblico di internet, tante difficili, complicate, frammentate tribù. Okay. È uno scoop questo, secondo adesso me. Adesso lo ce andiamo già a decrittare quello che ha detto. Noi salutiamo, credo che il primo tempo sia finito. Ringraziamo 16:30 Nova Lab 24. Domani, arrivederci. Nova Lab 24.